oggi in onore di Santa Edith Stein, la patrona d'Europa, una delle tre donne che sono patrona d'Europa, insieme a tre uomini, ma sono arrivate dopo, grazie a Giovanni Paolo II, Santa Teresa Benedetta della Croce, in suo onore, ma non solo. Noi proviamo a fare l'orazione su un'altra figura dell'Antico Testamento che ha avuto dal Signore una vocazione, la vocazione di salvare il suo popolo. Ecco, anche Santa Teresa Benedetta è stata chiamata a un certo punto della vita a dare la sua vita, e sia per il suo popolo ebraico, sia per la Chiesa, sia per la salvezza del mondo. E ecco, in una certa misura anche la regina Esther, figura molto suggestiva dell'Antico Testamento, è stata chiamata dal Signore a salvare il suo popolo, anche disposta a perdere la vita. E il libro di Esther è un libro importante nella liturgia ebraica, è uno di quei cinque libri che nella liturgia ebraica vengono riletti in cinque feste particolari, no? Il Cantico dei Cantici a Pasqua, il libro di Ruth a Pentecoste, le Lamentazioni quando si ricorda la distruzione del Tempio, il Coelet nella festa delle capanne e il libro di Esther nella festa dei Purim, che è l'ultima festa dell'anno e che proprio ricorda, e questo libro dice come è stata pensata questa festa, come ricordo di questo momento in cui il popolo ebraico è stato salvato da una distruzione totale. E noi nella tradizione della Bibbia come ce l'abbiamo noi viene considerato un libro storico, anche se ci sono discussioni, altri pensano che sia una storia, una parabola, e viene letto nella liturgia delle ore, nell'ufficio di letture, tutti gli anni. Ecco, viene letto nella sua versione ebraica, perché questa è anche una caratteristica singolare di questo libro, che se voi andate nella nuova edizione della Bibbia, è un libro di cui viene proposto il testo greco e il testo ebraico. È molto suggestivo sapere che è così, che la parola di Dio a volte appunto è multiforme, la rivelazione del Signore ci arriva in modo diverso, e anche nella tradizione cattolica c'è questa idea, no? Quando Origene metteva a fianco tutte le varie versioni, le varie lezioni, si sapevano anche questi padri antichi che a volte un certo testo era tramandato in vari modi, ma la visione cattolica li prendeva tutti. A volte il Signore ha fatto in modo che un certo testo appunto ci arrivi in vari modi. Beh, come dicevamo qualche giorno fa, quelle due versioni della frase di Gesù sulla sua esaltazione sulla croce, omnes oppure omnia, tutte e due ci dicono qualcosa di vero ed importante, no? Che l'attrazio crucis, l'attrazione della croce per tutte le persone e per tutte le cose. Gli ebrei sentivano il bisogno a volte di riscrivere la scrittura per farla propria. No? Mosè raccomanda che riscrivessero, no, la legge sulla pietra una volta entrati nella terra promessa. E Giosuè lo fa. E quindi ecco, solo che questo racconto ebraico di della regina Esther, i 70, quando lo traducono in greco, lo ampliano. Nel racconto ebraico è più breve. Dio è presente, ma non è tanto citato. Invece i 70 lo citano molto di più e mettono più in evidenza il motivo per cui Aman voleva distruggere gli ebrei. Ester significa stella e in persiano, e questo anche per noi è suggestivo, no? Cioè è una luce attraverso la quale il Signore ci può spiegare qualcosa della vocazione. Altri rabbini dicono che il suo nome invece ha un'assonanza con una parola ebraica che significa nascondimento, no? La nascosta, perché effettivamente lei rimase all'inizio nascosta come ebrea, come credente in questa sua storia e si rivelò dopo. Il libro dice anche una cosa che ci fa capire che questa donna viene ritenuta esemplare. Dice di lei che non ha né padre né madre, non ha genealogia come Melchisedec, come intendevano gli ebrei che dovesse essere il Messia senza genealogia, che non si sapeva da dove venisse, anche se di Ester si sa che è ebrea. All'inizio la storia, detta brevemente, è la storia di questo re persiano Assuero che, nel voler manifestare tutta la sua potenza, dà una festa molto grande, poi chiama la sua moglie, la regina Vasti, per far vedere a tutti la sua splendida bellezza, e lei non va, disobbedisce al re. Allora il re ne ha un'offesa grandissima e pensa quindi di non considerarla più la regina e la sua moglie, e fa in modo che vengano scelte le ragazze più belle, no? Le vergini più belle, no? Del suo regno, e poi per scegliere la regina. E a quel punto Mardocheo, che è un ebreo colto, influente, intelligente, suggerisce ad Ester di presentarsi. In effetti lei viene preparata insieme con le altre, alla fine il re la sceglie, si innamora di lei. Però le suggerisce anche Mardocheo, che è il suo consigliere, di non manifestare la sua origine. E quando appunto nell'ambito di questo regno accade appunto che il cattivo, no, della storia, no, Aman fa un decreto, ottiene che il re, quasi inconsapevole, che venga mandato in tutte le città questo decreto perché venga distrutto il popolo. Allora Mardocheo dice a Ester, che ormai è la regina, che ormai è gradita al re, che si faccia avanti per salvare il suo popolo. Solo che la consuetudine, la legge dice che la regina non poteva presentarsi al re così se lui non la chiamava. E quindi, anzi, quindi in quel momento lei andava contro la legge nel presentarsi al re. Erano già 30 giorni che non la chiamavano. E rischiava anche la vita. In quel momento se al re faceva, diciamo, faceva piacere la sua presenza, se le porgeva lo scettro da baciare, allora voleva dire che era stato contento del suo ingresso alla sua presenza, altrimenti poteva anche decretare la sua fine. E allora lei, prima di andare, di presentarsi al re, dice a tutti, a Mardocheo, a tutti gli ebrei, di pregare il Signore per 3 giorni e per 3 notti, di fare digiuno. Lei stessa si veste di sacco, toglie tutti gli abiti regali e fa digiuno, prega. E allora... E a un certo punto la Bibbia, il testo greco, riferisce una sua preghiera molto accorata, molto bella, nella quale si affida totalmente al Signore. Prima aveva appunto detto: vai a Mardocheo, raduna i giudei, digiunate per me per 3 giorni e 3 notti, non mangiate, non bevete, anch'io e le mie ancelle digiuneremo. Allora, contravvenendo alla legge, entrerò dal re anche se dovessi morire. Poi pregò al Signore, ricordando tutte le gesta del Signore, disse: Signore, Signore, re che domini l'universo, tutte le cose sono sottoposte al tuo potere e non c'è nessuno che possa opporsi a te nella tua volontà di salvare Israele. Tu hai fatto il cielo e la terra e tutte le meraviglie che si trovano sotto il firmamento. Tu sei il Signore di tutte le cose e non c'è nessuno che possa resistere a te, Signore. Tu conosci tutto. Tu sai, Signore, che non per orgoglio, né per superbia, né per vanagloria ho fatto questo gesto di non prostrarmi davanti al superbo Aman, perché avrei anche baciato la pianta dei suoi piedi per la salvezza di Israele, ma ho fatto questo per non porre la gloria di un uomo al di sopra della gloria di Dio. Non mi prosterò mai davanti a nessuno se non davanti a te, che sei il mio Signore, e non farò così per superbia. Ora, Signore Dio, Re, Dio di Abramo, risparmia il tuo popolo, perché guardano a noi per distruggerci e desiderano ardentemente far perire quella che è la tua eredità dai tempi antichi. Vi ricordate, ecco il riferimento ad Abramo, no? La promessa di Dio. A volte nella preghiera, vedete, lungo tutto l'Antico Testamento, si ricorda a Dio la sua promessa. Si ricorda a Dio quello che Dio ha fatto già per salvarci, no? Tu che hai, che ci hai liberato dal paese d'Egitto. E mi viene in mente che anche nella preghiera di San José María, quando in quella omelia verso la santità, dove fa un po' una specie di breve storia della sua vocazione, e in cui narra momenti di luce, momenti di ombra, momenti belli, momenti di difficoltà, allora a un certo punto, in uno dei momenti d'ombra, dei momenti di oscurità, allora la sua preghiera è fatta così: dice: ricordati, Signore, delle promesse che mi hai fatto, non trascurare il tuo possesso che hai redento per te dal paese d'Egitto, ascolta la mia preghiera e sii propizio alla tua eredità, cambia il nostro lutto in gioia, perché vivi possiamo cantare inni al tuo nome, Signore, e non far scomparire quelli che ti lodano con la loro bocca. Il popolo che mantiene la fede in Dio, il popolo che può

O Dio, che su tutti eserciti la forza, ascolta la voce dei disperati, liberaci dalla mano dei malvagi e libera me dalla mia angoscia. Allora, io penso che questo racconto, evidentemente in una storia antica, in situazioni molto diverse dalle nostre storiche, però può essere il racconto di una donna che ama il Signore al di sopra di ogni cosa e a cui viene chiesto dal Signore attraverso la sua storia di manifestarsi come sua serva, no? Come sua credente in un ambiente estraneo, in un ambiente forse che potrebbe essere ostile. Allora penso che ciascuno di noi, e soprattutto ciascuno di voi che sta, no, la cui vita, la cui esperienza, la cui professione, ecco, vi porta in mezzo al mondo, in situazioni le più diverse, può trarre un insegnamento da questa fortezza, no? Una fortezza piena di paura, di Esther, e anche comprendere che lei ha capito, ecco, perché è stata messa lì, perché è arrivata lì, qual è il significato salvifico della sua situazione e anche il significato salvifico della sua bellezza. Mentre la prima regina Vasti pure era bellissima, però lei aveva rifiutato di essere vista dal re come una bellezza esteriore solo da mostrare, no? A tutti come suo trofeo. Invece Esther sa utilizzare la sua bellezza per la salvezza del suo popolo. Anche in questo ecco, viene da ricordare quella domanda di Dostoevsky, no? Quale bellezza salverà il mondo? In un certo senso la bellezza evidentemente è la bellezza di Dio, che è uno dei grandi delle grandi caratteristiche di Dio. Uno, vero, buono e bello, no? I trascendentali dell'essere. E Dio è anche espresso come bello. A volte forse le traduzioni anche del Vangelo sono andate più in una linea più di bellezza interiore, no? Il buon pastore. Però il greco dice il pastore bello. Io sono il pastore bello. E tu, Signore, hai creato tutte le cose con questa caratteristica della bellezza che permette agli uomini creati per quanto lontani dalla verità, di avere una visione di te, di avere una percezione di te. La bellezza della creazione, anche la bellezza del lavoro dell'uomo. Noi quando lavoriamo, in qualche modo costringiamo il Signore a dare l'essere a qualcosa che non ha creato lui direttamente. E quindi se facciamo una cosa buona e bella, il Signore è contento perché lui in qualche modo si lega le mani. Noi possiamo fare anche una cosa brutta e non buona e lui è costretto a dargli l'essere a quel lavoro là. Eppure invece un lavoro buono e bello corrisponde a quella che è stata la sua meraviglia quando ha creato l'uomo e soprattutto la donna, per cui ha ammirato l'opera delle sue mani, il capolavoro delle sue mani come cosa molto bella. E allora Esther utilizza la bellezza per entrare nel cuore del re e per fare in modo che la verità delle sue parole possa essere ascoltata. Il terzo giorno, quando ebbe finito di pregare, si tolse gli abiti servili, si rivestì di quelli sontuosi, fattasi splendida. Invocò quel Dio che su tutti veglia e tutti salva e prese con sé due ancelle. Su di una si appoggiava con apparente mollezza, mentre l'altra la seguiva sollevando il manto di lei. Era rosea nel fiore della sua bellezza, il suo viso era lieto, come ispirato a benevolenza, ma il suo cuore era oppresso dalla paura. Attraversate tutte le porte, si fermò davanti al re. Egli stava seduto sul suo trono regale e rivestiva i suoi ornamenti ufficiali. Era tutto splendente di oro e di pietre preziose. Aveva un aspetto che incuteva paura. Alzato il viso, che la sua maestà rendeva fiammeggiante al culmine della collera, la guardò. La regina cadde a terra in un attimo di svenimento, mutò colore e si curvò sulla testa dell'ancella che l'accompagnava. Dio volse a dolcezza l'animo del re. Ansioso balzò dal trono, la prese tra le braccia, fino a quando ella non si fu rialzata e la confortava con parole rassicuranti, dicendole: «Che c'è, Ester? Io sono tuo fratello. Coraggio, tu non morirai, perché il nostro decreto è solo per la gente comune. Avvicinati». Alzato lo scettro d'oro, lo posò sul collo di lei, la baciò e le disse: «Parlami». E lei gli parla e alla fine il re ascolta il suo consiglio, dà prima un banchetto, poi un altro, e quindi viene a scoprire la malvagità di questo disegno e si mette dalla parte di Ester e lo sconfigge, lo conclude. E quindi fanno poi gli ebrei una grande festa e stabiliscono che questa festa si faccia tutti gli anni. La festa del Purim, e alla fine Mardocheo, che era il personaggio che aveva consigliato Ester sia che si presentasse dal re per diventare la regina, sia poi perché diceva: «Non ti puoi salvare tu da sola, devi salvare il tuo popolo», allora alla fine dice delle parole che dice: «Queste cose sono avvenute per volere di Dio», e si ricorda un sogno che aveva fatto. Mi ricordo infatti del sogno che ebbi circa le cose di cui ti sto parlando. Neppure un loro dettaglio è stato tralasciato. La piccola sorgente che divenne un fiume, la luce che spuntò, il sole e l'acqua copiosa. Questo fiume è Ester, che il re ha sposato e ha costituito regina. Aveva sognato tutto, il Signore gli aveva suggerito attraverso il sogno. Noi stessi possiamo, insomma, sognare nella nostra orazione, che il nostro sogno diventi preghiera, che la nostra preghiera diventi sogno, attraverso il quale il Signore Dio può passarci il suo sogno, comunicarci il suo sogno. E allora sogniamo insieme, e in questo sogno ciascuna di voi, ciascuna persona che è da Dio chiamata, è come una piccola sorgente. Anche questa, vedete, è un'immagine bellissima presa dalla natura. Come Gesù dice, il piccolo seme che diventa albero frondoso, no? E gli uccelli del cielo possono riposare tra i suoi rami. È una piccola sorgente che diventa fiume, è una luce che spunta e poi diventa sole. È un'acqua copiosa, e questo fiume è Ester, la stella, la nascosta che però poi si manifesta. Anche noi viviamo una vocazione normale, piena di normalità in mezzo al mondo. Privilegiamo le cose belle, cerchiamo di vivere una normalità anche attraente. Tutte le cose belle e buone dal punto di vista umano noi le assumiamo, è solo il peccato che cerchiamo di evitare. E attraverso la bellezza della nostra creazione, attraverso i doni che il Signore ci ha dato, no? La bellezza, l'intelligenza, l'allegria, ecco, e tantissimi altri doni. Il Signore fa in modo che quello che Lui ci ha dato, ci ha detto, si manifesti all'esterno. Allora comprendiamo il motivo di quel dono del Signore, il motivo profondo. Quindi, come dice Esther, non per vanità, non per orgoglio, non per, ma per la gloria di Dio. E vogliamo ascoltare, Signore, la tua voce che ci dici, esci allo scoperto, eh? Comunicati, manifestati, anche se questo qualche volta può darti la paura di poi di essere in qualche modo fatta fuori dal nemico, eh? E allora però è anche il modo perché le persone conoscano te, Signore, attraverso le donne di Dio, gli uomini di Dio, persone che stanno in mezzo al mondo ma si sono dati totalmente a te. E questo è il grande sogno, il grande progetto di Dio, e che ha comunicato al nostro Padre, che ha comunicato a ciascuno di noi, e che diventa il cuore di ogni vocazione, e di ogni vocazione in generale, e di ogni vocazione all'opera, con le caratteristiche peculiari che noi conosciamo. Allora chiediamo alla Madonna, che in cui la profezia della regina Esther si è compiuta pienamente, la nascosta che poi si manifesta, no? Colui che è, colei che è la sorgente, il fiume di acque continue che ci arrivano di grazia di Dio, di cui lei è l'acquedotto, che ci aiuti a guardare lo sguardo di Dio innamorato della nostra bellezza, e che ci invita a parlare di Lui.